La rete Don't Panic, insomma, nasce fin dallo scorso marzo per dare un sostegno mutualistico, insomma, a chi si trovava a dover affrontare i drammi sociali scaturiti dalla crisi pandemica, che è stata anche una crisi ovviamente sociale ed economica, ma è stata anche una crisi della cura, cioè una crisi della riproduzione sociale. Noi siamo partiti da due dati, uno fattivo, cioè il fatto che comunque da un anno praticamente siamo chiusi in casa da questo punto di vista, a larghi tratti per tutto il 2020 e parte del 2021 siamo stati costretti alla zona rossa o comunque al lockdown, dunque in qualche modo chiusi all'interno delle nostre mura domestiche, e dall'altra parte un dato statistico, cioè che questi sono dati Istat sull'occupazione di dicembre: 101.000 nuove unità di lavoratori e lavoratrici disoccupati, 99.000 sono donne, quindi dimostrando come tutto il lavoro di cura, tutto il lavoro legato al benessere delle persone e della famiglia, che si sta concentrando all'interno delle mura domestiche a causa del lockdown, a causa della mancanza dei servizi pubblici, si sta riversando in capo alle donne, appunto all'interno delle mura domestiche. Ci siamo detti che questo è un problema sociale, è un problema sociale sia perché, come dire, la mancanza di servizi pubblici di fatto ha aperto una grande contraddizione in seno alla pandemia, cioè quella che è il conflitto tra profitti e benessere delle persone, nel senso che oggi il dibattito sta tutto sulla riapertura delle attività produttive, ma non sta invece su quelle che sarebbero le misure necessarie a implementare il benessere, la cura, i servizi sanitari aggiunti per le persone che stanno subendo la crisi sanitaria, ma che in generale stanno subendo anche tutta una serie di problemi da questo punto di vista. E fondamentalmente i condomini della cura sono un'esperienza che nasce appunto per provare, su base condominiale, offrire una risposta di comunità, cioè a socializzare, a mettere in comune il lavoro di cura attraverso il tentativo di costruire delle banche del tempo, perché ogni condomino possa mettere a disposizione il tempo che ha libero durante la settimana per provare a redistribuire quel lavoro legato al benessere, quel lavoro legato alla cura. Per esempio, se c'è qualcuno che è costretto a causa della chiusura delle scuole, per esempio, sia a lavorare smart working, sia badare ai figli o alle figlie, io o chiunque altro si può mettere a disposizione durante quelle ore di lavoro per svolgere quel lavoro di cura nei confronti dei figli al posto di quella persona, e viceversa, in un'ottica di scambio mutualistico e di mutuo aiuto. Avete già qualche adesione o avete semplicemente lanciato l'idea per adesso? Abbiamo lanciato l'idea sulla base del tentativo di costruire questa piattaforma e abbiamo circa una decina di adesioni, e in più stiamo collaborando a stretto termine con il co-housing Porto 15, che è in via del Porto, e che è un'esperienza appunto di co-housing, di abitare sociale in qualche modo, che il comune lanciò qualche anno fa. Con loro, insomma, stiamo provando, come dire, anche a costruire un'esperienza pilota, mettiamola così. Loro si sono messi a disposizione perché ovviamente già per cultura in qualche modo del co-housing provano a costruire delle forme dell'abitare socializzato, di comunità, in contrapposizione spesso invece all'isolamento dei nostri condomini classici, ecco. Quindi hanno accolto questa proposta con entusiasmo e stanno provando già a metterla in pratica. Hai già sottolineato che, diciamo, iniziative come queste vanno a sopperire alle mancanze del welfare, insomma, dei servizi pubblici. Quindi, oltre a queste forme di mutualismo, pensi sia comunque necessario condurre una battaglia politica affinché ci pensi lo Stato? Certo, ne siamo assolutamente convinti. Noi non vogliamo ovviamente sostituirci a quella che dovrebbe essere un ruolo pubblico, nel senso che oggi questa necessità è esplosa soprattutto in tempi di pandemia, soprattutto a seguito di 20 anni di tagli, di privatizzazione dei servizi pubblici, di dismissione del welfare pubblico. Questo è un problema politico, è un problema che ci poniamo. Io credo che sia fondamentale oggi costruire esperienze di comunità proprio per cercare in qualche modo anche di uscire da una fase di profonda solitudine e trovare un nuovo senso del fare comunità, e da questo punto di vista però serve ovviamente un rilancio politico per un'uscita dalla pandemia che si basi su nuovi servizi pubblici, si basi su una nuova struttura di supporto alle persone. E soprattutto l'altro tema politico che ci poniamo ovviamente è quello della divisione sessuale del lavoro di cura. Oggi quel lavoro è concentrato sulle donne, e anche nell'esperienza che stiamo provando a costruire dei condomini della cura vorremmo che fossero soprattutto gli uomini a mettersi in gioco per assumere la propria responsabilità in termini del contributo che possono dare dal punto di vista della cura e del benessere, per sgravare soprattutto quella che è la femminilizzazione di questa parte del lavoro quotidiano, che è il lavoro anche se non viene retribuito e anche se c'è un tentativo costante di informalizzarlo, ma è un lavoro che va assunto da tutta la società.